di tutto quello che provo. Se ci provo mi rendo conto che non trovo il modo per dirtelo di nuovo. Siamo nello stesso punto di sempre, sembra di vivere un dicembre perenne. Questo freddo fra noi non ci serve, serve chiudere le tende, fare finta di niente, spegnere le luci e non badare a chi ci sente. Perché chi è troppo prudente poi ci perde. Forse non sono adatta, forse sono momenti, forse per te è un gioco, l'amore da perdenti. Forse io sono matta, oppure tu non cresci, troppo impaziente per vedere chi diventi. A volte un grande uomo quando ti presti un poco di buono, sono lo specchio dei difetti. Forse vorresti chi sorride e annuisce e poi ti bacia con la stessa bocca che tradisce. Dimmi, ti leverei la faccia solo per averti. Sei chi mi trovi solamente quando cerchi il sole. Oh, io ti porterò il sole. Oh, tutto è sole. E già lo vedi, basta chiudere i tuoi occhi. Sai che lo trovi ogni volta che mi tocchi il sole. Oh, ti porterò il sole. Io non so ancora quanto potrò aspettarti. Di te regali solamente alcune parti. Cuore gelido, dovrei allontanarti. Cercavi il sole ma bastava voltarti. Già decifrarti è pari a zero. Sono più semplice ma ho un cuore più severo. Tu ricordami chi ero, riportami dov'ero. Scaccia le nuvole, riportami al settimo cielo. A volte siamo simili ma abbiamo troppi limiti. Se non ti dico sì ti giri poi ti irriti. Noi con l'orgoglio al primo posto. Levami le nuvole di dosso e porto il sole appena posso. Io vorrei dirti cosa provo ma non posso. Morirei piuttosto dirti quando soffro. Tu non mi hai visto, guardato veramente. Ti porto il sole, basta chi mi tiene in mente adesso. Ti leverei la spiaggia solo per averti. Sei chi mi trovi solamente quando cerchi il sole. Oh, io ti porterò il sole. Oh, tutto è sole. E già lo vedi, basta chiudere i tuoi occhi. Sai che lo trovi ogni volta che mi tocchi il sole. Oh, ti porterò il sole. Ok, non sono io a fermarlo. Se tu vuoi il sole devi solo guardarlo, prima che arrivi un altro per rubarlo. Saluta il buio dall'alto. Questo sole va e questo sole viene. E adesso è qua anche se non gli conviene. E tu, basta solo chi mi chiami. Io ti porterò al sole con le mie stesse mani. Ti leverei la faccia solo per averti. Sai che mi trovi solamente quando cerchi il sole. Oh, oh.